Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori... Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante... Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Dopo le due ore di Edo che vi accompagnano dalla fine del pomeriggio all'inizio della sera, è Giulio Caperdoni con l'ora di Eclettica tutti i giorni fra le 19 e le 20 ad aprire appunto i programmi serali che poi proseguiranno con Marco Garavelli, Claudia e Maurizio Faolisi, anche se la sera si sta spostando sempre più in là con l'arrivo della primavera. Giulio Caperdoni che vi ricorda, visto che qualche trasmissione che non lo fa, vi ricorda dell'esistenza della lista nera, ovvero sia la mailing list a cui iscriversi, scrivendo a giulio@radiorockfm.com per poter ricevere settimana dopo settimana la playlist di Eclettica, ovvero sia l'elenco dei brani, dei film e dei libri che costituiscono la trasmissione. Erano le ultime ore di luce di un pomeriggio di dicembre, di più di 20 anni fa. Avevo 23 anni, stavo scrivendo e pubblicando i miei primi racconti e, come gli eroi di tanti Bildungsroman che mi avevano preceduto, già contemplavo il mio stesso imponente Bildungsroman. Quando raggiunsi il nascondiglio dove dovevo incontrare il grande uomo. La casa di campagna rivestita di assicelle era nel Berkshire, in fondo ad una strada sterrata a 350 metri d'altezza. Ma la figura che uscì dallo studio per elargire un cerimonioso saluto indossava un completo di gabardine, una cravatta blu di maglia puntata alla camicia bianca da una semplice spilla d'argento e un paio di scarpe nere dall'aria ministeriale, così lucide da farmi pensare che fosse appena sceso dalla panca di un lustrascarpe, più che dall'altare maggiore dell'arte. Questo era l'incipit de Lo scrittore fantasma di Philip Roth. We'll be right back. the end result, the true genius of the plan was the fear. Fear became the ultimate tool of this government, and through it, our politician was ultimately appointed to the newly created position of High Chancellor. The rest, as they say, is history. Ho già dato in inizio di trasmissione l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, in quel caso l'ho dato specificatamente per la lista nera, ma vi ricordo che vi serve questo indirizzo anche per scrivere direttamente a me, in modo che le vostre parole possano anche diventare parte di questa trasmissione, come per esempio succederà anche quest'oggi. Trasmissione che si è aperta con Jim Noir, con Don't You Worry, ed è proseguita con i danesi Wolfkin, con These Are All Illusions. Ed ora un estratto da una colonna sonora, un estratto inedito da una colonna sonora di un film intitolato come il numero 21, 21, in cui l'attore principale è Kevin Spacey, che interpreta un professore di matematica. È una colonna sonora in cui ci sono brani che per esempio già fanno parte delle playlist di Eclettica, come Time to Pretend degli MGMT, o che hanno fatto parte negli anni passati delle playlist di Eclettica, come di recente Uncle con Hold My Hand, oppure andando indietro negli anni come Young Folks di Peter Bjorn and John. E poi ci sono dei remix che solo a leggerli mi interessano, mi intrigano, come il Soul Walks remix dei Rolling Stones di You Can't Always Get What You Want, oppure come anche la LSF Lost Souls Forever dei Kasabian, ripresa da Mark Ronson. Noi ci ascoltiamo per il momento l'unica traccia che ho a disposizione di quelle che sono contenute in questa colonna sonora, un inedito degli LCD Sound System intitolato Big Ideas. Il fratello maggiore di Ira Ringgold, Murray, fu il mio primo insegnante di inglese al liceo e se legai con Ira fu grazie a lui. Nel 1946 Murray si era appena congedato dall'esercito, dove aveva prestato servizio nella 17esima divisione aerotrasportata durante la battaglia delle Ardenne. Nel marzo del 1945 aveva partecipato al famoso Salto del Reno, che segnò il principio della fine della guerra in Europa. Era a quei tempi un tipo calvo, esuberante e duro, non alto come Ira, ma atletico e asciutto, sempre proteso sopra le nostre teste in uno stato di perenne vigilanza. Negli atteggiamenti e nelle pose era assolutamente naturale, ma nel parlare piuttosto prolisso e sul piano intellettuale quasi minaccioso. Questo era l'incipit di Ho sposato un comunista, di Philip Roth. Serpents on the tartness in my chest, rest and subsides and wandled on with a hum that split its length. Does my name sting your tongue? Now does it, babe? Thank you. days could crush this fragile day. As my thoughts swirl in some shrill, sad cannonade, and one such spur that caused my throat to creak, the one dull dawn that I've sentenced to repeat. The security of this nation depends on complete and total compliance. Tonight, any protester, any instigator or agitator will be made example of. Il mio divino cavaliere. Blues a passo di danza, è amore carnale, è bere e mangiare. Il mio divino cavaliere è un tamburo lontano nel buio, è un serpente piumato, è un invisibile arcobaleno. Santo del funerale, è un piccolo ragno che striscia, è il signore dei crocicchi, 3 minuti fa. Serpenti e il ballerino nel cerchio sacro. È un gallo nero decapitato, è fango elettrico nella palude, è il mio mojo working. Il mio divino cavaliere è un uomo medicina. È un demone in un turbine di sabbia. Mambo Jumbo. Hey! Qualche giorno fa vi avevo letto un mail che era arrivato da Genova, da Martina di Genova. Beh, più che un mail vi avevo letto tutto lo scambio di mail che c'era stato. Martina che parlava della sua situazione, parlava di sé, ma parlava anche delle donne in generale. E questo mail, questi mail, il mio averli letti ha scatenato altri messaggi che sono arrivati. Io scelgo, guarda il caso, quello scritto da un'altra Martina, che non è ovviamente la stessa, che si presenta anche con uno pseudonimo, ovvero sia quello di Poiana. Parole che appunto sono legate a quelle già lette in onda. Caro Giulio, quando osservo le mani di mia madre, consumate e nodose come radici d'alberi secolari, quando osservo il suo timido sorriso, che porta ancora quella piccola smorfia di dolore e sofferenza, timida, soffice come un pensiero, quando osservo il suo sguardo ancora vivo, e fiero di essere sopravvissuto alla guerra della vita. Quando la osservo, vedo una donna. A queste donne va il mio ringraziamento sincero, per la loro forza, per la loro speranza, per il loro posto in questo mondo, figlio del loro ventre. A queste donne che non sanno riposare, che vivono in una trincea dove le cadute sono tante, dove sempre riescono a trovare la forza di rialzarsi. A queste donne che reincarnano l'elogio della vita e della bellezza nell'amore. A queste donne che hanno ancora paura e che, nonostante tutto, non hanno ancora dimenticato come si faccia a volare. Grazie, Martina. E lasciando queste parole, ritornando alla musica che vi siete ascoltati, il brano che si è appena chiuso era dell'italiana, della piacentina Lilith, in questo caso con The Sinner Saints, Mambo Jumbo Talking Blues, prima ancora Chris Bathgate e Serpentine, e prima parte di Eclettica che si chiude con un interessante duo che viene dalla Francia. Per la precisione, i due vengono da Perpignan. Si chiamano Mademoiselle Caro e Fran Garcia, e questa è Dead Souls.